известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I think that every sane individual in this planet should be slightly worried about the state of the human race at this point in time. There's a solution to every problem. Not really. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Questa era una canzone dei Beatles che stiamo riascoltando in una versione assai particolare che vogliamo citare, utilizzare qui nell'apertura del programma di oggi, una specie di prologo, no? Una nota a sé stante che si connette con i temi in discussione stamattina nel programma di Giuliano Ferrara e questa questione dei giochi del Mediterraneo a cui la rappresentativa israeliana non viene invitata e noi abbiamo un po' frugato in giro su altre situazioni considerabili in parallelo, no, con quanto accadrà a Pescara e ci siamo imbattuti in questa strana storia, una storia di una canzone dei Beatles che poi preclude a nuove collaborazioni presentate da due artiste insieme che sono Noah e Mira Awad, con la caratteristica che Noah è una famosa, internazionalmente nota cantante israeliana, mentre Awad è una araba israeliana, e le due artiste in questione adesso parteciperanno, guarda caso, no? Partecipazione, quello di cui si parlava proprio questa mattina nel programma di Ferrara, parteciperanno insieme a uno dei più famigerati, ma anche seguiti, come dire, con una specie di perverso interesse da alcuni di noi, ovvero l'Eurovision Song Contest, no? l'Eurofestival, chiamatelo come vi pare, insomma una cosa che affonda nella nostra infanzia, almeno nell'infanzia di alcuni di noi, magari non proprio uno spettacolone di livello artistico musicale elevatissimo, però uno strano carrozzone che quest'anno vedrà la sua nuova edizione in Russia, a Mosca, e come simbolo della possibilità di coesistenza e comunque della necessità di partecipazione, ci sarà sotto i colori israeliani questa doppia presenza femminile, ovvero un'ebrea e una araba, Mira Awad e Noah, insieme sul palco a intonare una canzone che poi peraltro avrà un titolo assai significativo, Must Be Another Way, che vuol dire ci deve essere un altro modo per farcela. Israele ancora una volta utilizza questo strano luogo, no? Luogo comune continentale dell'Eurovision Song Contest per provocare, non so se vi ricordate, un transessuale che vinse addirittura molti anni fa nel 98 il contest, si chiamava Dana, la canzone si chiamava Diva, poi ci fu un rappresentante di una piccola setta ebrea, i Black Hebrew, con Eddie Butler, che a sua volta ad Atene nel 2006 si fece notare e diede anche visibilità appunto alla sua setta di appartenenza, ma in questo caso invece è un tema dell'attualità a essere ripreso, a essere utilizzato come veicolo di una proposta e comunque di una visibile, no? Di una possibile armonia da queste due artiste, e ci è piaciuto sottolineare tutto ciò in apertura, prima poi di cominciare, come in questi giorni è quasi inevitabile anche a Jefferson, cominciare a servire la portata principale e di conseguenza parlare di soldi. This is a corporation that finds itself in financial distress due to recklessness and Greek. Ieri lo abbiamo lungamente atteso, poi ha parlato non appena Jefferson si era concluso. Barack Obama ha preso posizione in modo molto aperto, molto chiaro, molto esplicito. Non sappiamo quanto efficace, quanto fattivo su questa storia dei bonus ai manager della AIG, no? la grande sigla assicurativa americana, che ha appena ottenuto la rateizzazione di 170 miliardi di dollari, insomma una cifra straordinaria per salvare le proprie sorti, e nel frattempo si è messa a pagare 165 milioni di dollari in bonus ai suoi manager. La storia ha fatto letteralmente rabbrividire tutta l'America, e è cominciata una presa di posizione sempre più intensa da parte dell'amministrazione. Hanno parlato prima Larry Summers, il consulente economico di Barack Obama, poi ha preso posizione Timothy Geithner, il ministro del Tesoro, e poi il presidente in prima persona è sceso in campo dicendo quello che stavate ascoltando poco fa. AIG è una società che si trova in difficoltà a causa della sua imprudenza e della sua avidità, ha detto Obama. In queste circostanze è difficile capire come ai trader di AIG possano essere garantiti dei bonus, come si possa giustificare questo oltraggio ai contribuenti che tengono la società in vita. E molte sono le reazioni alla presa di posizione così esplicita di Barack Obama. Alcune delle reazioni sono le vostre, perché noi abbiamo rinnovato questo tema di discorso nelle nostre pagine Facebook. Poi ci sono anche delle reazioni invece differenti dal punto di vista mediatico. C'è per esempio un articolo incredibilmente duro pubblicato poche ore fa da Time Magazine, a firma di Michael Shearer, che si chiama, intitolato L'oltraggio della AIG secondo Obama, tante chiacchiere e nessuna azione. E è un articolo nervoso in cui si sottolinea come nella presa di posizione di Barack Obama ci sia troppa retorica, che sembri quasi ormai una sitcom televisiva. Secondo l'autore, questa rappresentazione della rabbia, questo atteggiamento scandalizzato, oltraggiato, a fronte poi di una notizia che, dice l'articolista, era già in circolo da giorni. Bloomberg News ne aveva già parlato, magari ci si poteva muovere un po' prima, non si doveva attendere il deflagrare della faccenda, e tutte queste chiacchiere o portano a un intervento o non portano a niente. Quale intervento, direte voi? Ne avete parlato anche nei vostri messaggi, tra poco riferiremo, ma intanto vi diciamo che Chris Dodd, che è un ex candidato alla nomination repubblicana e ha anche a sua volta una parte in causa nella faccenda, perché a sua volta era responsabile di una commissione di controllo dell'operato delle grandi società, propone una tassazione straordinaria su AIG e su casi di questo genere. Far rientrare in pratica i soldi, questi 165 milioni dei manager premiati per ciò che non hanno fatto, farli rientrare sotto forma di tassazione. Ma invece poi, se andiamo a cercare, noi abbiamo frugato meglio e abbiamo trovato un articolo di Fortune uscito ieri, che sostiene un metodo più tecnico, e sicuramente chissà quanti avvocati, commercialisti, esperti, ben più di noi che siamo quasi negati, no, nella materia, adesso potranno scuotere la testa oppure aprire un occhio, alzare un sopracciglio per interesse. Insomma, ci sarebbe un procedimento che si potrebbe avviare. In inglese è una controversa dottrina che porta il nome di unconscious ability, che potremmo tradurre non coscienziosità, o meglio ancora inconcepibilità di un contratto. Insomma, è una dottrina che sostiene che quando un contratto è troppo sbilanciato da una parte, è inconcepibile nella sua ingiustizia, nonostante i termini contrattuali siano stati stabiliti da persone, no, adulte, consenzienti, lucide e volontarie, si può parlare di uno shock, no, di uno shock emotivo, etico talmente forte che potrebbe indurre qualche giudice a rivedere questo contratto, in pratica non dare i soldi ai manager della AIG. Bisogna vedere se questa strada o quella della tassazione verrà percorsa dall'amministrazione Obama o se nessuna delle due, e quindi potrebbero essere solo chiacchiere, come ha sostenuto l'innervosito editorialista di Time. Ma intanto, tra pochi istanti, dopo ancora un po' di Noah e della sua amica Mira Awad, andiamo a sentire che cosa ne pensate voi. Vedremo che fine faranno queste particolari rappresentanti, no, del team israeliano all'Euro Contest di Mosca. Certo, per il fatto che in Italia non lo trasmettono più, ho saputo che tu sei un appassionato di Euro Contest. Sì, ho dei motivi familiari per guardarlo puntualmente ogni anno. La RAI non lo fa vedere per ragioni invece di pubblicità. Sì, sì, ma era uno spettacolone con i ciprioti, i maltesi. Poi con i collegamenti con tutte le capitali, cioè, europee. Sì, fantastica. Con le votazioni, poi che si facevano i favori, facevano le lobby, no? Sì, di solito la lobby balcanica vince per quello, perché ci sono tanti voti a disposizione. Va bene, ma torniamo a parlare di AIG, anzi, cominciate voi a parlare di AIG. Abbiamo riproposto il tema, abbiamo fatto un atto secondo, no? Un sequel del dibattito di ieri, perché ci sono delle parole di Obama che ci hanno colpito, però appunto c'è il rilancio dei giornalisti americani delle ultime ore. Sono parole o sono fatti? Comunque, ha detto Obama che non si tratta di una questione di dollari o cent, ma di valori fondamentali. Nel paese ci sono persone che lavorano duramente ogni giorno, senza bonus multimilionari e salvataggi del governo, e tutto quello che questa gente chiede è che tutti, da Main Street a Wall Street, la famosa metafora, passando per Washington, giochino secondo le stesse regole. È un'etica che dobbiamo chiedere, questa frase, un'etica che dobbiamo chiedere. Vi abbiamo detto, volete interrogarvi ancora su questa etica di cui Obama chiede, no? La partecipazione, il coinvolgimento degli americani, ma forse anche degli occidentali in genere. E in effetti i nostri ascoltatori si sono interrogati anche oggi. Io ho messo in riga un filotto di pareri però piuttosto negativi, piuttosto critici nei confronti di Obama. C'è per esempio Claudio che dice: Obama è questo, dice al momento giusto quello che vogliamo sentirci dire, se poi lo trasforma in prassi è forse presto per dirlo, ma almeno si espone. Poi c'è Giuseppe che è invece ferocissimo con il presidente americano. Dice: se il buongiorno si vede dal mattino, questo è un brutto campanello d'allarme per gli americani. Se su una faccenda tutto sommato semplice stiamo assistendo all'ora del dilettante, mi domando come sarà di fronte Obama, naturalmente, a questioni decisamente complesse e di più difficile gestione. Obama ha incantato l'America e il mondo, parla bene, ma i primi fatti cominciano a puzzare di fregatura addirittura. Posso chiudere con uno positivo? Vai, c'è vai. Enrico che tutto maiuscolo scrive: forza Barack, ora devi mettere in pratica i buoni propositi, è l'ora di farla finita con queste ingiustizie. Questa unconscionability di cui ho parlato prima, i nostri ascoltatori che la sanno molto più lunga di noi, ci precisano chiamarsi nel linguaggio della legge italiano patto leonino. Il patto leonino sarebbe quello secondo il quale se è flagrante, palese l'ingiustizia, nonostante il contratto sia firmato, si può recedere. C'è altri ascoltatori dicono che tipo Simo, l'esperto Simo, dice ma è una strada che secondo lui fa ridere. Vedremo se si arrampica o se chiacchiera. Barack Obama, Luigi dice, mi sembra talmente scontata, ovvia e giusta, di buonsenso, questa decisione di Obama che non ha bisogno di essere commentata. Antonio dice, probabilmente Obama sta abilmente sfruttando la situazione per consolidare la propria immagine di paladino dei deboli. Nonostante questo, sentire un presidente pronunciare parole come quelle per un attimo infonde speranza. E questo è il discorso. Lui, se non altro, tiene su. Poi bisogna vedere se la baracca sta su. Andrea, passaggio cruciale per Obama, per la sua credibilità davanti al popolo americano e del mondo tutto. Allora io ho un messaggio di Alberto, fantastico, dice: Mr. President, nel frangente mi sembra un agnellino di fronte ad un branco di lupi ululanti, affamati. Vi ricordate il marchese del Grillo? Maghi della finanza e i banchieri sono il marchese in questione, che evita l'arresto e dice ai poveracci la famosa frase: io so io e voi non siete, e non posso finire la frase. Poi c'è Massimo che dà invece una lettura interessante. Questa sa molto di bufala. Qualcuno di voi ha mai lavorato presso multinazionali? Se sì, sa benissimo di che cosa sto parlando, quindi vediamo di chiamarli con un altro nome. Quello giusto, mazzette per zittire i manager che saranno interrogati prossimamente. Siamo di fronte veramente a un quadro inquietante. No, interrogarli li interrogano. Adesso poi abbiamo un collegamento tra poco con Platero. Vedrete, sentirete parlare della discesa in campo di Andrew Cuomo. Insomma, si sta muovendo. La questione comunque non dovrebbe essere liquidata così com'è. Giampiero dice, in America i grandi manager si assegnano i compensi senza alcun controllo effettivo. In Italia i politici fanno altrettanto. Come al solito facciamo un po' figurone. E chiudo con Luigi che dice, l'etica è definita come la ricerca di criteri per gestire la propria libertà nel rispetto degli altri. In questo caso è più corretto parlare di morale, cioè dell'insieme di valori per appartenere a un gruppo sociale. Va bene, possiamo accettare la precisazione. Abbiamo degli ascoltatori tra giuristi e filosofi. La questione però è chiara. Qui qualcuno si è preso i soldi che non doveva. Che fa? Li ridà, fa finta di niente, si allontana fischiettando. Ne parliamo tra poco con Mario Platero. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Insomma, siamo un po' documentati, questo patto leonino, no? Questo patto leonino, insomma, è una cosa che risale ai tempi che furono, e sarebbe un principio, dicono le enciclopedie, in base al quale è nullo il patto con cui uno o più soci delle società di persone sono esclusi dalla partecipazione degli utili o delle perdite, insomma, se i guadagni non sono ben suddivisi. Ma secondo me rifarsi a che la denominazione deriva dalla celebre favola di Fedro, rifarsi a Fedro e andarglielo a citare in faccia ai manager della AIG non mi sembra proprio come di una strategia vincente. Magari si troverà qualcosa di meglio. Ci sta provando per esempio il procuratore generale di New York Andrew Cuomo, che è a caccia di informazioni, vuole mettere a sedere il delegato della società Edward Liddy. Molto mobile la situazione, però vorrei chiamare in causa a questo punto chi la sa più lunga di noi, ovvero Mario Platero. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, noi nella prima parte del programma abbiamo commentato per il secondo giorno di seguito, anche con il contributo dei nostri ascoltatori, questa storia anche dell'intervento diretto di Obama nella questione AIG, e poi un innervosito, come l'abbiamo chiamato, editoriale di Time, in cui il titolo parla chiaro: All talk, no action. In pratica l'editorialista Michael Shearer se la prende con Obama e dice: sì, hai fatto un gran bel discorso, però where is the beef, come dicono gli americani? La sostanza, insomma, qual è? Questi li ridanno i soldi o non li ridanno? I contratti sono contratti o no? Io, per cominciare, vorrei proprio coinvolgerti personalmente col tuo know-how in relazione a queste storie. Secondo te come finisce questa storia della schiena dritta che Obama invoca da parte della nuova finanza americana? Ma guarda, la situazione è complicatissima, perché è un po' come avere letteralmente la classica cipolla che ogni volta che la sbucci ne viene fuori un altro strato e poi un altro e poi un altro e poi un altro, per cui questa storia della AIG è veramente super complicata, perché è una storia, diciamo, che si è snodata su più livelli. L'ultimissimo, quello che abbiamo visto, quello dello scandalo, questi 465 milioni di dollari stanziati da dare in bonus ai dipendenti, 165 addirittura dovrebbero andare a un gruppo di executive che faceva parte di questa divisione che è la principale responsabile del collasso di AIG, e che ha perso 40 miliardi di dollari. Ecco, uno dice: ma con che faccia questi incassano dei bonus? Ma bonus di che cosa? Ed ecco, su questo livello, che è il livello più di impatto popolare, bene, Obama a un certo punto è intervenuto in prima persona, perché c'era stata una levata di scudi in America, una levata di scudi veramente impressionante. Domenica aveva parlato Larry Summers, anche lui indignatissimo, in uno dei programmi del mattino, i programmi televisivi del mattino, dopodiché però ha concluso dicendo: beh, sapete, però i contratti sono contratti, e dunque noi per prima cosa, come America, dobbiamo rispettare il diritto dei contratti. Se questi signori avevano diritto a qualche cosa, credo sarà difficile far marcia indietro. Ecco, a questo punto interviene Obama, che smentisce Larry Summers, incarica Geithner di avviare delle procedure per bloccare questi quattrini. Quindi il primo livello è un livello di contraddizione all'interno, nell'inner circle della stessa amministrazione. Il secondo livello è questo dello scandalo morale di persone che prendono soldi di cui forse non avevano diritto, non è chiaro. Ma il terzo livello, che è ancora più serio, è che Obama ha bisogno di altri soldi per tenere su questi AEG, e dunque lui deve dare questo messaggio morale forte, perché altrimenti il Congresso, il Parlamento, e qui arriviamo al quarto livello, non gli approva una eventuale nuova linea di credito di cui potrebbe aver bisogno. Finora il governo americano ha investito, perché di questo si tratta, 170 miliardi di dollari dentro questa società, una cifra spaventosa, e ha il controllo dell'80% della AIG. Come andrà a finire, dicevi tu? L'idea è che il contribuente americano a un certo punto recuperi questi soldi. Li recupererà? Non credo. Cioè, francamente, pensare che AIG a un certo punto possa rimettersi in piedi e rifare questi quattrini che ha perduto e restituire al contribuente americano 170 miliardi di dollari, la vedo davvero molto difficile. Del resto, Mario, viene paventato un eventuale crollo di AIG come la peggiore delle sciagure per la finanza americana. È davvero così? Se succedesse una cosa del genere, si avrebbe un effetto domino così, così spaventoso? Beh, è questo il punto. Infatti, per questo siamo, e qui arriviamo appunto a un livello ancora successivo, cioè a livello sistemico. E AIG era una specie di punto di equilibrio su cui appoggiavano una gran quantità di istituzioni americane, di stati americani, che si erano assicurati, immagino che forse lo avete descritto un po', ma la sostanza della faccenda qual è? Che questa società di assicurazione andava ad assicurare la credibilità, il rischio di certe obbligazioni, erano questi famosi credit swaps, no? Credit swaps, CDS, che credit default swap, cioè era uno scambio attraverso cui la società, la compagnia di assicurazione garantiva una banca contro il rischio di fallimento di una certa obbligazione. E quindi il sistema funzionava bene, c'erano tutte le valutazioni del rischio, del AAA, AA, BB, BBB, quindi c'era un sistema che funzionava e, come sappiamo, l'assicurazione funziona sulla base delle statistiche, e così valutavano che c'era un rischio di fallimento pari allo 0,3% di, adesso improvviso naturalmente, ma comunque un rischio minimo di fallimento di queste obbligazioni, magari della General Motors piuttosto che della General Electric, eccetera. Quando siamo entrati nella crisi sistemica, il weekend chiave fu il famoso weekend del 14 settembre con Lehman Brothers in difficoltà, con Merrill Lynch che annaspava e con appunto AIG che cominciava a mostrare il fiato, il governo americano decise di lasciare al suo destino Lehman, che sembrava la meno rischiosa, la più vulnerabile, ma anche quella che con meno rischi sistemici, di proteggere Merrill e AIG, che invece avrebbero potuto avere delle conseguenze sistemiche. Allora diedero 85 miliardi di dollari alla AIG, furono gestiti, furono rimborsati immediatamente alcune di queste polizze di assicurazione, perché se AIG non pagava, ecco che le banche che si erano assicurate avrebbero perso altri soldi. Certo, ed ecco che quindi si metteva in moto, moltiplicato per 10, il rischio di una reazione a catena tipo quella che abbiamo vista con Lehman. Quindi c'era in effetti una questione sistemica, che resta tuttora. Ma ecco, devo dire, tra questo, tra il cercare di proteggere una situazione sistemica che poi è crollata e quindi andare a cercare di chi fossero poi le responsabilità vere, è ovviamente molto complicato, ma quando c'è un fenomeno sistemico ci siamo coinvolti un po' tutti, dallo Stato alle istituzioni, alle banche, agli individui. Ecco, però poi andare a distribuire 3-4 milioni di dollari, perché di queste cifre si parla, a una cinquantina di executive di AIG, ecco, questo è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco, riuscirà Obama a bloccare questi soldi? Ma di nuovo non è chiaro, e dunque la critica che tu riferivi prima, cioè schiena dritta, però poi dove sono i risultati? Certo. Ma per concludere, la discesa in campo di Andrew Cuomo, che sembra voler fare molto, no, il pragmatico in questa storia, che cosa può rappresentare in più? Lui vuole vedere chiaro nella questione, ha convocato Edward Leed, il capo, l'amministratore delegato. Dunque, si sta muovendo con grande aggressività, esatto, Andrew Cuomo, esatto. Lui è il procuratore generale dello Stato di New York e avendo la supervisione dello Stato di New York e quindi della piazza finanziaria, non solo dello Stato ma della città, ha dei poteri speciali in materia di regolamentazione finanziaria. Ha chiesto anche di conoscere la destinazione dei bonus di Merrill Lynch, ricordiamo, qui parliamo di 400 milioni di dollari, ma Merrill Lynch ne ha stanziati 3.600 di milioni di dollari, cioè 3.600 miliardi di dollari da distribuire in bonus, capisci? Quindi c'è una situazione che è così, grida un po' vendetta, e dunque Andrew Cuomo è un po' l'alfiere che vuole ricostruire a chi vanno questi soldi, cioè di bloccarli, cercare di capire la singola persona se davvero li meritava. Ti faccio un esempio: su EG uno dei parlamentari dice, ma io voglio sapere se questi soldi questo signore li doveva incassare in quanto aveva prodotto, vendendo delle polizze, determinati redditi per la società e quindi erano veramente un premio di produzione che gli toccava contrattualmente, oppure se era un premio così campato per aria su determinate performance teoriche che magari si riferivano all'anno prima. Sì. E allora qui c'è una grossa differenza. Scusa, chiudo però dandoti una curiosità, forse l'avete accennata prima, ma mi sembra che, essendo Jefferson Ming, qui raramente capita che ci sia una congiunzione come questa, e cioè che questa famosa AIG, American International Group, nasce a Shanghai. Nasce a Shanghai con un imprenditore americano che porta nel 1919 le prime assicurazioni ai cinesi. Scappa poi dalla Cina con la rivoluzione maoista e solo negli anni 60, poi con Hank Greenberg, questo famoso finanziere americano, diventa poi negli anni il colosso che è diventato proprio introducendo questa innovazione, e cioè l'assicurazione corporate, l'assicurazione per le società. Abbiamo visto come è andata a finire. Tutti coinvolti, nessuno coinvolto. Molte grazie a Mario Plater. Vedremo anche se Andrew Cuomo su questa storia ci costruirà poi, insomma, la già molto annunciata, molto strombazzata, il suo salto di qualità politico che sembra un po' nell'aria, e vedremo poi alla fine se qualcuno riporterà, no, le caramelle in drogheria. Per ora mi sembra stanno tutte ben nascoste. Stiamo per aprire l'ultima parte del programma, che dedichiamo a una notizia di tutt'altro ordine e grado, ma non di importanza inferiore. È cominciata, è atterrato l'aereo dell'Alitalia su cui ha viaggiato il pontefice Benedetto XVI. Papa Ratzinger è atterrato a Yaoundé, nel Camerun. Comincia questo viaggio in Africa molto controverso, già per le dichiarazioni che l'hanno corredato in corso di volo, no? Sono arrivate giù dal cielo, dal suo aereo, alcune dichiarazioni che hanno fatto così già molto rumore e anche discreta polemica. Ora ne parliamo, mi sgridate perché non parlo abbastanza di pallacanestro, ma come faccio a parlare di pallacanestro a Jefferson, l'arte della svolta? Dobbiamo trovare validi motivi. Poi qui c'è un validissimo programma invece di basket nel weekend, che vi dà le informazioni nel modo più compatto, robusto e organizzato. Ma una ve la do, perché è volante, tra l'altro è di nera, perché hanno sparato, per fortuna solo nelle gambe, a un giocatore piuttosto famoso che si chiama Carl Landry, gioca con gli Houston Rockets, se ne andava a spasso per Houston in macchina, due colpi di pistola, uno l'ha centrato in una gamba nell'ultima partita, 23 minuti e 12 punti, mi sa che di questi 12 punti a partita i Rockets per questa stagione dovranno fare a meno. Oh, ecco, abbiamo stabilito il contatto con Franco Moretti della redazione di Nigrizia, il mensile dei padri comboniani dedicato all'Africa, agli africani nel mondo. Ci sembrava l'interlocutore migliore per cominciare a impostare il discorso attorno a questa visita papale in Africa, una visita che arriva una decina d'anni abbondante dopo l'ultima di Giovanni Paolo II, datata 1990. 98, e che porta con sé molti interrogativi, talmente tanti che non faremo in tempo a consumarli tutti, alcuni dei quali provenienti direttamente dalle dichiarazioni che Benedetto XVI ha fatto nel corso della conferenza stampa in volo. Ma prima di tutto salutiamo Moretti, buon pomeriggio, grazie di essere qui. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Insomma, il Papa ha sentito il bisogno nel corso del viaggio che lo portava in Camerun di fare alcune precisazioni. Vorrei un commento da parte vostra, insomma, che, come dire, sul campo invece ci state sempre e comunque. Per esempio, è intervenuto sul Sua Santità sul problema dell'epidemia di AIDS. Ha detto: non si può superare con la distribuzione dei preservativi, che anzi aumentano i problemi. Il problema, la piaga dell'AIDS, ha chiesto un comportamento umano, morale e corretto e una grande attenzione verso i malati, soffrire con i sofferenti. Ma sono argomenti che si possono tangibilmente, insomma, portare a un incontro con l'Africa, che tra l'altro va in scena con questa lunga attesa, questo lungo tempo di attesa. È così che conviene presentarsi a un continente africano sicuramente in difficoltà? Ma guardi, io dopo 25 anni d'Africa non mi sono affatto scandalizzato di delle parole del Papa. Le ho ascoltate con rispetto, ma penso che sia troppo intelligente per pensare di volere mettere in difficoltà l'Africa, né tantomeno vuole diventare il grande omicida degli africani. Il Papa è il portavoce, è, diciamo, per l'Africa soprattutto, è il grande capo della Chiesa. E l'Africa ascolta quello che dice il grande capo e si aspettano che il grande capo, quando parla, punti il dito sempre e inviti la gente a guardare all'ideale. Questa è tutta questione di linguaggio. Nel linguaggio vaticanesco, nel linguaggio che poi è la filosofia, la teologia tomistica, sì. L'idealis è proprio la stella verso cui tendi, ma quasi certamente è irraggiungibile. Quindi che il Papa dica che con il condom non si può risolvere la questione dell'AIDS, penso che sia tutti, qualsiasi esperto, qualsiasi dottore che è stato in Africa dice ha ragione, perché è vero che prima di lui l'hanno detto tanti presidenti e tanti ministri della salute. In Uganda, tutti ora dicono che in Uganda... Però magari Moretti aiuta, non so come dire, c'è anche poi una situazione reale con la quale confrontarsi, può essere certo, diciamo, non una soluzione ma certo, ma certo, però l'Africa non è una cittadina, è un continente, in Africa ci sono 800 e passa vescovi, ci sono 53 conferenze episcopali che ci sono espresse, in che modo? Hanno preso e continuano a prendere questa sottolineatura che il Papa fa dell'ideale, proprio perché dice non dobbiamo dimenticarlo, e poi traducono nella pratica, contestualizzano questo ideale. Certo. Quindi noi abbiamo per esempio molte conferenze episcopali dell'Africa australe che dicono che l'uso del condom, pur essendo oggettivamente peccaminoso, e peccaminoso non è un crimine che poi io, per cui io poi ti arresto, ma è peccato, è una relazione, è un uso che non ti porta nella giusta relazione nei confronti dell'ideale verso cui dovresti tendere, ma pur essendo oggettivamente peccaminoso, quindi fuori strada ideale, è eticamente difendibile, e tutti i vescovi dell'Africa insegnano questo, e quindi io in 25 anni non ho mai provato questo grande dramma, non ho mai pensato che fosse la Chiesa Cattolica la colpevole della diffusione dell'AIDS. Senta Moretti, ci aiuti un po' invece ad ampliare il discorso, perché appunto un viaggio dopo 11 anni in vista di un sinodo sull'Africa, due paesi selezionati dallo staff in un panorama molto più ampio, ci può dare in un minuto un po' il senso principale di questo viaggio, cosa va a fare, a dire Benedetto XVI e in vista di che cosa? I nostri ascoltatori dovrebbero ricordare che nel 1994 ci fu una celebrazione del primo sinodo africano, certo. Poi dopo 10 anni il Papa Giovanni Paolo II decise che ci fosse una seconda edizione di questo sinodo, quindi una seconda assemblea del sinodo dei vescovi per l'Africa. Sì. Ora, l'instrumentum laboris, lo strumento di lavoro che dovrebbe preparare a questo sinodo è stato distribuito nel 2006. Le chiese africane avrebbero dovuto rispondere al questionario allegato a questo documento. La mia personale impressione è che non ci sia stato una risposta molto folta a questo questionario, anche perché tanti stati africani, tante nazioni africane sono in situazioni talmente disastrate che è un po' difficile pensare davanti alla fame, davanti alla guerra, davanti alle violenze etniche di organizzare degli incontri per rispondere a questo questionario. Quindi io penso che il Papa ha avvertito una mancanza di preparazione a questo sinodo che dovrebbe essere celebrato il prossimo ottobre, ed ecco quindi che ha deciso di andare in Africa per consegnare l'instrumentum laboris, il documento di lavoro su cui poi verteranno tutte le discussioni del sinodo. Bene Moretti, dobbiamo interromperci qua alla consegna, poi naturalmente torneremo a parlarne, alla consegna di questo documento dove comincia il lavoro in vista del sinodo da parte di Benedetto XVI rivolto ai vescovi africani. Torneremo a analizzare le dinamiche di questo complicato scenario che si crea a partire da questi minuti in cui appunto Papa Ratzinger è atterrato in Africa, in Camerun. Tan tante notizie sono rimaste fuori, era un po', come dire, affastellato, tante cose volevamo trattare e dire, alcune ci siamo riusciti, altre no. Per esempio c'è un Barack Obama molto discusso in quanto andrà da Jay Leno, il comico intrattenitore americano, domani, visibile anche in Italia tra l'altro, la sua partecipazione allo show della NBC. Molti giornalisti si chiedono: ma è opportuno che un presidente in questi momenti assai drammatici vada a far ridere? Vedremo come se la cava. Jefferson, te racconto e vi informerà di tutto questo. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori. La mail è jefferson2@radio24.it. Le due pagine Facebook a cui potete iscrivervi per essere ancora più vicini al programma sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24. Express yourself per partecipare ai nostri forum. Andiamo in replica alle 24, in podcast sul sito della radio, in diretta domani alle 4 qui su Radio 24. Jefferson 2, l'arte della svolta.